Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Attaccare! Ma devi gridarlo forte! Attaccare! Più forte! Più forte, perché è nello stadio! Attaccare! Ma dai, state a vedere! Attaccare! Ci ha tenuto a dire che è molto più vicino alle posizioni della Lega rispetto a quanto scrivono i giornali o rispetto a qualche tempo fa, ha confermato l'analisi assolutamente negativa sul governo Renzi-Alfano e rispetto solo all'anno scorso è un cambio di rotta a 360 gradi, perché ricordiamo che Forza Italia, il patto del Nazareno, le riforme votate insieme e Renzi l'ha sostenuto. Quindi... Vedere tutti i trattati di questa Europa che è un'Unione Sovietica, mi sembra che Forza Italia e Berlusconi si stiano avvicinando alle posizioni della Lega, quindi mi rende contento. Si sono riavvicinati a cena. Chissà. Sei grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu. Lo so che vi siete svegliati questa mattina. Magari non vi siete ancora svegliati e siete lì a pensare, ma Salvini e Berlusconi, il centrodestra si riunirà o no? Sono le dichiarazioni politiche più importanti della giornata. Questo vi fa capire dalla lettura dei giornali la noia mortale che incombe su tutto il paese, almeno a leggere che Atene forse fa l'accordo, forse non fa l'accordo. Poi la notizia per molti è che c'è il blocco dei contratti degli statali che la Corte Costituzionale ha stabilito essere illegittimo, ma solo per il futuro, eh? Per il passato non viene che vi restituiscono i soldi. Poi cosa c'è? I migranti. Ci sono un paio di interviste a Salvini sul giornale e su Repubblica, sul suo accordo con Berlusconi, e poi cosa c'è? C'è la Giulia, che non è una nostra amica, ma è l'Alfa che rinasce con la Giulia, presentata. Una noia mortale, sì. Potete tornare a dormire, ecco, questo va bene. E poi c'è Ignaro Marino, che dice a Repubblica: non mi dimetto neanche coi cannoni. Mi piace Marino, mi piace che tiene duro, non molla di un millimetro. Fa bene. Dai, mandiamo Mina, dai, facciamo sentire Mina, la gente così si riconcilia col sonno. Grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu. Ma non è che Nina faccia dormire, però secondo me io ho dormito 3 ore, quindi io adesso mi fai sentire ancora 2 giri di Nina qua, sogno e via, e mi riaccompagno con un guanciale. Allora, le 6:32 minuti, questo è 24 mattino, siamo pronti, cari ascoltatori. C'è Lorenzo Nespoli in redazione, c'è il nostro alpino Peter Bescapè in regia, come sempre. Fai abbassi, no, Mina. Non posso sfregiare Mina, fai il bravo, Peter. Non posso sfregiare Mina. Allora, sono le 6:33 minuti, è il momento anche di aprire il Parlamento. Siamo sicuri? Siamo sicuri? Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. Il numero per i vostri messaggi è il 349-238-6666. È il solito numero, Li paghiamo noi e con quello che paghiamo voglio bere tanto da tornare storto come il dottor House. Allora, qui oggi abbiamo due graditissimi ritorni al Parlamento. Intanto Carlo Rienzi, il io che sono Carletto, vabbè. L'ho fatta nel letto, l'ho fatta nel letto. Lo sappiamo, il Rienzi, il quasi omonimo, insomma. Abbiamo il nostro Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Buongiorno a tutti. Come gli va? Ascoltatori. Come va? Ma ho letto siamo che annoiati. No, il vostro amico Schettino, il vostro amico Schettino ha scritto un libro. Com'è che ha combinato? Ah, è uscito il libro? È uscito, non so, mi pare che l'abbiano presentato ieri, non leggevo, che non ho seguito le presentazioni. Le verità sommerse. No. Dai, su, ma Schettino, mamma mia. I sommersi sono solo i poveracci morti, veramente. Appunto. Sono appunto morti, però, perché abbiamo scoperto solo una settimana fa. Sì. Che sembra che il collaudo al generatore di emergenza della nave non fosse stato mai fatto. Ah. Dopo grandi cause abbiamo avuto il testo del collaudo da Fincantieri, obbligato dal TAR, e non risulta questo collaudo. Ah, quindi non sono saltate, la corrente è saltata, gli ascensori sono bloccati, le persone sono morte nella tromba dell'ascensore. Oh. Quindi Schettino, per carità, andrà all'inferno, basta il carcere se ma il carcere spetterebbe anche a chi non ha controllato i generatori di emergenza e chi non ha collaudato i generatori di emergenza. Sentite come combatte il nostro quasi omonimo, il nostro Carlo Rienzi. Quando c'è non è possibile un solo colpevole con 30 rotti morti. Allora, insieme a Carlo Rienzi voglio salutare colei che ci sta. Guarda che ci sta rubando tutti i calciatori. Ogni giorno ce ne rubano uno qua dentro. L'ultimo è Imbula. Che io non so mica chi è quello là. Ma Imbula. Però basta buttare dei nomi e poi dopo uno si ingolosisce. Magari è un cesso di giocatore. Non lo so, c'ha due piedi come due tombini. Io non lo so, non so chi sia Imbula. Però so neanche che io. Neanche tu, però so che va all'Inter, questo lo so. Silvia Brasca. Ne abbiamo visti passare tanti. Ciao, buongiorno a tutti. Del TG della 7, eccoci qua. Oh, c'è chi dice parla dell'ISIS, così non ci annoiamo. Saluto anche Luisa, ma cosa c'è da dire dell'ISIS in questo momento? Oppure altri ascoltatori, cioè mi chiede chi come Franco da Roma mi dice: "Ma che noia, leggi il profilo di Salvini su Wikipedia ai tuoi ascoltatori e non ti annoi". Ma che, perché cosa c'è? Ci sarà mai sul profilo di Wikipedia di Salvini? Non lo so. Tu conosci il profilo di Wikipedia? Andiamo di Salvini? A vedere. Sì. No. Andiamo a vedere. Ci saranno delle rivelazioni di quelle che non ci dice 7 volte al giorno? Ci sarà qualcosa tenuto di nascosto giusto per Wikipedia? No, non credo. Comunque, insomma, la politica si anima per questo. Il buon Salvini e il buon Berlusconi che forse fanno pace. Avranno parlato anche del Milan, chi lo sa. in questo pranzo, Silvietta Brasca. Voi al TG della 7 che vivete di politica, vivete di politica. Sì. Il tuo direttore vive di politica. Cosa? Ci siamo divertiti, e penso che ci divertiremo ancora. Eravamo là, però c'è il solito portone di Arcore, non è che si è saputo quello che si poteva intuire, insomma, i due. È un corteggiamento obbligato, se no non si vince quello che si è detto varie volte. Matrimoni combinati pare, secondo la stampa, che l'unione tra Salvini e Berlusconi sia sull'anti-euro, cioè Ugo Magri, che è uno sempre abbastanza informato, sì, dice che anche Berlusconi potrebbe vedere con favore l'uscita dall'euro. Perché ridi? Ci mancava, dai. Ma quando guarderà un po', guarderà i conti delle sue aziende, qualcuno gli dirà cosa costerà e cosa vuol dire, e farà marcia indietro. Intanto la Grecia ha fatto la voce grossa e ha avuto ragione. Ha avuto ragione in che senso? Sono sull'orlo del fallimento? Ha avuto ragione perché adesso l'Europa dirà va bene, facciamo come dite voi. Ma cioè, sicuro? Non scherziamo, cioè questi il partito che ha vinto lì non può mica cambiare posizione, farà finta di fare delle riforme e l'Europa farà finta che le accetterà. Allora forse chi strepita che in Europa bisognerebbe avere un atteggiamento più duro, cambiare posizione, cercare di ottenere di più e non farsi comandare da quei due, insomma, o uno che comanda la bacchetta a tutti quanti, non sbaglia. Ma non lo so se poi finirà così. Questa è una lettura. È la lettura dei. Scommettiamo. Scommettiamo. No, Renzi, non scommettiamo che per. Vi racconto di Di Pietro se perdo. No, racconto di Di Pietro. È vero, Renzi, ma che è successo tra te e Di Pietro? È una vicenda un po' complicata, È un po' lunga. È una cosa bellissima. È un po' lunga. Vabbè, ma c'è un teatro di tutto ciò? È successo qualcosa a Roma? Non lo so. Vabbè, niente, nicchia. Un giorno ce lo racconterà. Sai, Silvietta, che è 3 anni che ci ha promesso di raccontarci questa cosa. Lo so. Tra ma di Pietro. Di Pietro è un'altra storia. È un'altra di Pietro storia. L'ho conosciuto dal 92, che proprio l'ho frequentato. Un soggetto inqualificabile. Volano parole grosse qui al Parlamento. Inqualificabili. Siamo pronti a dimostrarlo. Ecco, va bene. Diciamo che l'altra notizia interessante di politica è Fassina che lascia il PD. Ma voi vi rendete conto? Ma è il teatrino ogni giorno. Civati ci ha messo 2 anni e mezzo. Fassina adesso dice sulla scuola: lascio il PD. Anzi, sentite, lo lascia, ma con sofferenza. Fassina. Al circolo PD di Centocelle, in un'assemblea pubblica, ho con sofferenza lasciato il Partito Democratico. Voi ve la immaginate questa riunione a Centocelle? Quante ci sono state? 15 persone? 25 persone? No, non lo so, ma non è che quella è il seguito di Fassina, ma per dire, cioè, al circolo di Centocelle, in questa riunione, Stefano Fassina lascia il Partito Democratico, con sofferenza. Cioè, non c'è neanche, non so, una telecamera, un qualcosa che testimonia questo momento a suo modo storico. Renzi non avrà voluto le telecamere. Non so, in diretta streaming. Silvia, potevate mandarla in diretta streaming sulla 7? Ne parleremo oggi nel TG La 7 Cronache. Qualcosa, sì. Questa è una telenovela che si chiude se ne riapre un'altra. La cosa, tu lo sai, fai anche tu i talk, quindi era quando si doveva trovare qualcuno del PD, no? Abbiamo centrodestra, da trovare qualcuno di centrosinistra, e prendevi qualcuno del PD tipo Fassina ed era peggio degli altri. Era imbarazzante. Alle prossime elezioni il PD sarà un partito massiccio e senza tentennamenti. Senza tentennamenti. Ci saranno solo i guaglioni. A proposito di tentennamenti, ma ancora oggi su Repubblica Ignazio Marino, o Ignavo Marino, Ignaro Marino, come lo soprannomino in alcuni giornali, non molla di un millimetro. E io continuo a dire, secondo me fa bene. E dice: ho parlato anche con Napolitano, che me l'ha spiegato, non si può far decadere un sindaco. E Ignazio. Ma si può lasciare le strade con la monnezza. Ma questo sono d'accordo. Ma questo sono d'accordo. Ieri su una strada del centro, un altro poco mi rompevo la spina dorsale con le buche. Ma che è successo? Ma di che vogliamo parlare, di Marino? Ma chi se ne frega dei problemi dall'interno del partito, eccetera. La gente è stufa di una città che fa schifo per colpa dei romani anche. Poi cadevi, facevi causa al comune e via, e ti portavi a casa un po' di soldi. Soldi non si andrà mai portato, ma cause ne facciamo tante, anche questa sul degrado di Roma l'abbiamo fatta e la stiamo facendo. Però questo che significa? Un sindaco, ecco, lui doveva già, quando ha visto che cominciava a traparlare la poltrona, doveva dedicare soltanto alla città. In questo momento è un braccio di ferro politico in cui ogni giorno lo tirano dalla parte. I cittadini non vedono l'ora che se ne va, però. Su questo io posso essere d'accordo. Non sono di Roma e non lo so. Si voterà tra due anni, quando finisce il 2018? Si voterà. E se ha fatto schifo, i cittadini non lo voteranno. Come tutti i sindaci d'Italia. Intanto aspettiamo un altro anno, due anni e mezzo alla monnezza. Io non ho capito. Ma allora, che ne so, adesso facciamo l'esempio a Milano. Dopo un anno i cittadini sono scontenti, che fanno? Mandano a casa il sindaco? Cioè non è che si dovrebbe può fare. Dovrebbe essere possibile. Dovrebbe essere possibile come? Cioè, ogni sei mesi. Noi abbiamo dato adesso 30 giorni per far capire che vuole modificare le cose che i cittadini non accettano più. Il traffico impazzito con le macchine in doppia fila, la monnezza dappertutto. Non ho mai visto una città così sporca come in Roma. Questo paese, nemmeno quelle del sud sono così sporche. I cassonetti sono fatiscenti, li hanno cambiati due volte. È una cosa impossibile. Le buche, aveva detto che rimetteva a posto le buche, abbiamo scoperto che il cemento che mettono fa schifo pure quello. Ma insomma, ma dove stiamo? Ma possiamo vivere in una città così e fare pure le Olimpiadi? Fanno il salto della buca, dai, e ce l'hanno già il salto della buca. Silvia Brasca, dai, Marino tiene duro e fa bene, Marino, tiene duro. Non vedo onestamente, a parte quella del Campidoglio, politica, queste manifestazioni di piazza contro di lui. Fa bene, va avanti. A un certo momento, se non ce la farà, non ce la farà, insomma, se la giunta perderà i pezzi. Ma cosa ho capito. No, perché non ho mica capito che ha fatto negli ultimi 7 giorni per la città, che ha fatto, ma non me lo spiega lei, che sa tutto, giustamente, perché sta nel campo dell'informazione. Sì, a Milano. Dica una cosa che ha fatto, a Milano, no, deve sapere. Ma che non abbia fatto niente, me lo dicono anche i miei amici di Roma, che sia abbastanza un disastro l'amministrazione della città. Una cosa, ma d'accordo, ma è una questione, ed è diventata una questione di principio. Lo stesso Marino lo dice: io sono stato candidato, mi hanno supplicato di candidarmi quelli che adesso mi attaccano, perché avremmo perso Roma. Ma questo è un problema, quindi, tra di loro, e lui dice: ho vinto e adesso è una questione di battaglia per la vita. Per la vita. I cittadini stanno alla finestra. I cittadini stanno con la monnezza al collo. Intanto i primi anni dei sindaci, in genere, come fu per Pisapia, si spendono a risanare i buchi di quello precedente. Pisapia si trovò una voragine, e il primo anno dire che cosa ha fatto Pisapia, in genere fai una cosa per il quale che dai un segno. Marino ha fatto i fori imperiali e Pisapia aveva fatto l'area C, no? Che sono delle cose che danno un segno forte. Poi hanno da lavorare come dei commercialisti. Se ci ricordiamo Pisapia, davvero il primo anno, cosa fa? Iniziamo a dire cosa fa? E tu devi prendere in mano una macchina che non hai mai guidato e che era mezza rotta e che ti lavori adesso aspettiamo, cioè, perché dire non fa niente, siamo bravi tutti e in questo momento ricostruire una città come l'ha trovata, con quello che si è trovata anche la dai suoi propri amici. Sentite come combatte per Ignazio Marino Silvia Brasca, insomma. Ma sì, perché i problemi di Roma li vediamo, li abbiamo visti. Marino si è trovato davvero in mano una macchina rotta, è una voragine, scusatemi. Poi dopo sono Red Camp, sbaglia nella comunicazione. Io gli darei ancora fiducia. Fiducia. Approvato, basta, ha deciso Silvia Brasca. Fiducia, Marino può andare avanti. Il sindaco di Salerno De Luca, che mi sta antipaticissimo perché deve andare, perché la legge lo prevede, perché sennò deve tornare anche Berlusconi, sì, se vogliamo essere onesti, è andato a Salerno e non c'è spazzatura per strada. Non vabbè, c'è ma è stato 20 anni sindaco, quanto è stato? 15 anni. Ho capito, ma quando è arrivato ha fatto questo, ha fatto funzionare la città, ha messo ordine nel traffico, ha fatto cioè i sindaci che vogliono fare, fanno, anche se trovano l'eredità con i fondi che mancano, eccetera. Perché non è basta andare per vabbè, strada. Ma Marino ha detto neanche coi cannoni, e licenziarli. Ma Marino dice manco coi cannoni mi spostate, devo andare al traffico. Il primo premio va al traffico con il pelo lungo e le corna belle. 24 mattino. Ma Marino, te ne devi dannare, ci hai rovinato. Io vorrei sapere come Schettino ha potuto fare la dedica a quelli che sono morti. Ogni cosa si dice che ha il suo limite. Per esempio, il piano B. Cosa vuol dire? Biscotti, birra o banane? Pure bordello? Vedi Milan, Renzi fa benissimo a bombardare giornalmente Ignazio Marino. Dal suo punto di vista deve pagare due colpe molto molto gravi. La prima è onesto, la seconda è stato eletto. Mi stavo chiedendo se riferendomi al caso Sofri i nostri politici hanno ancora un minimo di capacità intellettiva, se dispongono ancora di un minimo di cervello o l'abbiano perso completamente. È molto grave che Renzi copra De Luca oppure che cambi la legge Severino, va bene? Io non lo voterò più. Le verità sommesse di Capitano Schettino, ma mannaggia con la zocca la miseria, ma vedono poco quando si marri tutto. Questo è il nostro editorialista campano, Silvia Brasca. Devo dire che abbastanza efficace nel suo eloquio, nel suo editoriale che ci lascia ogni mattina. Carlo Rienzi, le verità insomma, con la dedica alle vittime, io... Stati zitta, boccaccia, stati zitta, guarda. Me la sarei risparmiato, stato in lui e avrei soltanto detto che non è corretto che una sola persona su tanti responsabili sia stato processato e condannato in un paese che vuole essere giusto. Non che non dovesse essere processato e condannato lui, perché credo che nemmeno lui lo pensi. Quello che voi dovete dire, secondo me, alla gente è che non è solo colpa ha contribuito ad ammazzare quelle persone ed anche con comportamenti non voglio dire insomma molto ma molto colpevoli, perché poi queste grandi imprese, queste grandi industrie fanno contratti di miliardi con Costa Crociera. L'altro giorno proprio è stato varato un nuovo contratto tra chi aveva fatto la nave e Costa Crociera, e quindi si campa sui soldi, poi si ammazza anche la gente. Ce l'ha detto. Allora, in tutto questo c'è sempre la questione dei migranti sui giornali, ovviamente non si placa di un millimetro anche questa. E allora Renzi ha parlato un po', ovviamente ha sentito un po' l'Europa, arriva divisa. Che strano, l'Europa è divisa sulla gestione di questa cosa dell'immigrazione, sulla gestione di quanto deve essere lungo il cetriolo o il calibro della patata novella. Su quello l'Europa è precisissima, burocraticamente precisissima. Quando bisogna fare le cose invece l'Europa è divisa, che strano. Comunque Renzi sul rischio pandemia della scabbia. Si è fatta ad esempio una polemica, io ero al G7, sulla questione di una emergenza sanitaria. Si è parlato di pandemia di scabbia. Vorrei che fosse chiaro su questo passaggio, su questo punto. Il rischio di una pandemia in questo pianeta esiste. In questo pianeta? Vabbè, capito. No, ho capito niente. No, no, vabbè. Allora insistiamo, vediamo se qua è più chiaro. Ma la malattia non la portano. La portano, come dire, le ricostruzioni giornalistiche soltanto nella realtà virtuale. Nella realtà fisica la portano gli aerei di linea. Non ho capito niente. Ma come no? Continuano a capire niente. Sono gli aerei di linea. Se ce la contro le compagnie aeree? Non lo so. Questo evidentemente sì. Cioè, le persone che viaggiano normalmente. Cioè, forse non sono i migranti, ma quelli che si per quelli questo che... può dare. Cioè, Silvia Brasca che prende il biglietto. Ma l'ho capito. C'è arrivata Silvia Brasca, attenzione, fermi tutti. Te lo spiega. Che voleva dire, Silvia? Che è vero che il rischio delle pandemie di come la SARS o l'influenza è alto, perché con gli aerei di linea, ti ricordi quando c'era stata la viaria in ascensore, se ne erano infettati 15 in un ascensore, penso cioè praticamente la gente che si sposta porta le pandemie, non i migranti che arrivano, ma non di scabbia, ma dai, è ovvio. Cioè, io quando sento parlare della scabbia mi gratto dalla rabbia per chi la nomina. Viene la scabbia. Il nostro amico Salvini con la storia della scabbia è vergognoso. Vabbè, il nostro amico Salvini, tra l'altro, oggi fa perché man mano che leggevo, sfogliavo i giornali e devo dire che c'è sul Giorno, il Giornale, Repubblica e La Stampa. Però l'ho trovato su 4 interviste perché deve spiegare in ognuna, credo, i dettagli dell'incontro con Berlusconi. Vabbè, Renzi, non abbiamo parlato della questione degli statali, ma qua dobbiamo chiudere. Non abbiamo parlato lo sblocco degli statali. Non abbiamo parlato delle bollette, che l'autority dice le liberalizzazioni portano un aumento delle bollette di circa 300 euro. Dei tifosi che noi difendiamo contro gli imbroglioni del Catania. È bellissimo, perché gli inquirenti che indagavano sulla questione del Catania si sono lievemente insospettiti quando al telefono uno ha detto che doveva prendere il treno delle 33. Ecco, quando ha detto, perché dicevano probabilmente i numeri delle maglie dei giocatori da compagni. Quando uno ha detto io prenderei il treno delle 33, lì come nella famosa scena di Fantozzi, quando vede la moglie con chili di pane in cucina, a Fantozzi venne un leggerissimo dubbio, forse non stanno parlando di treni, il treno delle 33. Va bene, vi devo salutare, vi ringrazio, Silvia Brasca. Buona giornata. Ciao. Attaccare Silvia Brasca, attaccare! Attaccare! Forza, Carlo Renzi, alla prossima. Tutte le mattine le attaccare! Attaccare! Il segnale orario vi è offerto da Proteggi la tua casa. Index isola, impermeabilizza e risana in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Uno, due, tre. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. E allora, amici miei debosciati, sono le 7:18 minuti, ben ritrovati e con 24 mattino, ora leggeremo i giornali, la rassegna stampa. Prima però vi ricordo i temi, torneremo sulla vicenda che ha fatto tanto scandalizzare anche i nostri ascoltatori, delle migliaia di case del patrimonio pubblico di Roma affittate a 7,75 euro, non è un errore, al mese. Avremo ospite l'assessore al patrimonio del Comune di Roma, Alessandra Cattoi, per cercare di spiegarci come sia possibile una cosa del genere. Poi parleremo di quel caso messo in luce dal giornale da un paio di giorni, di un signore che ha una condanna fino a 44 anni di carcere, ma gira indisturbato per Viareggio, perché è una condanna non definitiva, solamente in primo grado. Ne parleremo dalle 8:15 con il suo avvocato e con Stefano Zurlo del giornale che ha fatto emergere questa vicenda. Ora andiamo a leggerli appunto i giornali. È giovedì 25 giugno, i titoli, il Sole 24 Ore apre sempre sulla Grecia, sapete che sono ore importanti per il trattato, lo dico anche decisive. La partita finale di Atene, i nodi sono pensioni e tasse. Questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Anche il Manifesto apre su questo con un tono diverso. Ci sono le foto di Mario Draghi, di Lagarde, della Merkel, quindi le istituzioni europee vicino a Tsipras. Il titolo è I discreditori, l'Europa cestina le proposte di Atene. E poi praticamente tutti i giornali aprono sulla decisione della Corte Costituzionale che ha accolto in parte i ricorsi dei sindacati sul blocco dei contratti nella pubblica amministrazione. Statali via il blocco dei contratti, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera. Per Repubblica, statali, la Consulta sblocca i contratti e salva i conti, perché la misura è bocciata ma non retroattiva. Statali, sbloccati i contratti, illegittimi gli stipendi congelati, ma non per il passato, solo per il futuro. Anche La Stampa, la Consulta sblocca gli stipendi degli statali. Mentre Libero si concentra su una protesta in piazza che vedremo tra poco, in galera ci va la polizia, questo è il titolo di prima pagina. Il Fatto Quotidiano invece affonda addirittura nella storia dell'Italia buia, quella del 92, delle stragi di mafia e l'ex capo del CESIS che denuncia quelle telefonate dei servizi segreti per firmare le stragi di mafia. Questo è il titolo di prima pagina. Voglio però iniziare da Ignazio Marino, sempre lui, colui che è nel centro del ciclone e che non arretra di un millimetro. Oggi fa un altro colloquio, non è proprio un'intervista, un incontro con Concita De Gregorio di Repubblica. Trovate tutto a pagina 9. Marino in trincea. Non mi dimetterò. Chi ora mi attacca è politica vecchia. È una sorta di giornata in Campidoglio a fianco di Ignazio Marino. Deve andarsene, dicono in molti. E perché esattamente non tutti hanno capito? Eccolo qui il sindaco marziano, il sindaco onesto, accarezza tutti i quaderni da cui non si separa mai, quelli con la copertina rigida, allineati in orizzontale nell'angolo più discreto del suo studio. Dice Marino, su questi quaderni annoto ogni conversazione, in effetti ho una memoria abbastanza precisa, e poi di notte trascrivo su decine di quaderni ogni particolare di questa conversazione. Per esempio, guardi qui, mostra a Concita De Gregorio, ho detto che non voglio il 1,7 miliardi che avete dato la volta scorsa per il giubileo, neppure il 1,5 miliardi che avete dato all'Expo. Ho detto non voglio un euro. Aumenterà il PIL con il giubileo e posso fare con i nostri soldi. Accendo un mutuo e lo ripago coi proventi. Ecco il progetto. Siamo autonomi. Basta che ci aumentiate il patto di stabilità per quest'anno. Facciamo da soli. Mi hanno detto no. Vede? Legga le risposte. E Concita De Gregorio racconta di questo quaderno in cui sono appuntate appunto le risposte. Poi parla delle dimissioni e dice al sindaco di Roma: non possono costringermi, purtroppo per loro, e non lo farò. Il problema non sono io. Io sono stato pregato di candidarmi, perché altrimenti, dicevano i sondaggi, con i candidati presentati dal PD avremmo perso Roma. Si sarebbe andati al ballottaggio fra Le Manno e i 5 Stelle, mi dicevano mostrando le indagini. Mi hanno scongiurato quelli che ora mi accusano di non essere duttile. Io l'ho fatto, ho vinto e ora questa è la battaglia della mia vita. Liberare il Campidoglio dalla politica oscura, bonificare, estirpare il malaffare. Capisco che ci sia chi ha paura, ma io non mi fermo e loro, la vecchia politica, non mi possono fermare. Ma aggiunge proprio: non possono tecnicamente. Me lo spiegò in tempi non sospetti Napolitano, allora presidente della Camera, quando dopo Tangentopoli si cambiò il sistema elettorale per i comuni. Non si può sfiduciare un sindaco. Per quanti assessori si dimettano, saranno sostituiti. La pressione politica nazionale, le pressioni di Renzi, i motivi che le determinano si fermano davanti alla volontà del sindaco. Insomma, Marino che non arretra di un millimetro e poi dice: io non sono di nessuno. E siccome non sono di nessuno, in politica vale la regola che se sei di qualcuno ti attaccano e se non sei di nessuno ti ammazzano. Ma io non mi farò ammazzare. Insomma, continua la trincea del sindaco di Roma in questa conversazione su Repubblica. Oh, dicevamo di questa prima pagina di Libero, ma è anche in pagina sugli altri, su alcuni giornali come Il Giornale. Ed è questa: in galera ci va la polizia. Questo è il titolo di prima pagina di Libero. Perché? È una protesta che oggi fa un sindacato di polizia, il SAP di Gianni Tonelli, segretario nazionale, con altri poliziotti, scenderanno in piazza Roma e Milano contro l'approvazione di un nuovo articolo del codice penale, l'articolo 613 ter, già approvato dal Senato. In pratica questo articolo punisce l'istigazione a commettere tortura da parte del pubblico ufficiale nei confronti di altro pubblico ufficiale, anche se la tortura non viene poi portata a compimento, cioè... Se un pubblico ufficiale di polizia dice a un collega di usare metodi brutali considerati da tortura nei confronti di una persona, anche se questo collega si rifiuta di farlo, c'è l'istigazione alla tortura. E scrive, per esempio, Libero dice: in galera ci va la polizia, noi stiamo con loro, perché il reato di tortura lega le mani alle forze dell'ordine, che finiranno sotto accusa anche se infliggono sofferenze psichiche agli arrestati. Insomma, una parola sbagliata può costare il processo. Magdi Cristiano Allam sul Giornale dice: racconto questo paradosso. Se un pedofilo chiede a un altro pedofilo di violentare una bambina e quest'ultimo non commette reati, cioè si rifiuta, non è punibile. Se un mafioso ordina a un altro mafioso di sciogliere nell'acero una persona e quest'ultima non lo fa, non è punibile. Se invece un agente di polizia dice a un collega di torturare, comunque di infliggere tortura nei confronti di un arrestato, a prescindere o meno dal fatto che il collega lo faccia, ecco che c'è il reato di istigazione alla tortura e viene punito. È un regalo ai criminali, così sentenzia il Giornale. Comunque c'è questa polemica sui giornali, come c'è una polemica legata alla cosiddetta teoria gender. La polemica c'è su Repubblica: studenti a lezione di parità tra i sessi in tutte le scuole. Riguarda la Convenzione di Istanbul, che deve essere recepita da tutti gli stati e quindi anche dallo Stato italiano, e c'è un emendamento a proposito riguardo alla buona scuola. Che recita così: il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e tutte le discriminazioni. Secondo alcuni, anche legati al Family Day, questa è una norma ambigua sulle attività educative che potrebbe consentire la diffusione nelle scuole della teoria sul gender, cioè della non divisione tra i sessi, che uomo e donna, bambino e bambina sono uguali, sono. Un'ottica, insomma, che supera la distinzione naturale tra i due sessi, maschi e femmine. E questa è l'accusa, dice: se passa questa norma rischia di diffondersi questa teoria nelle scuole italiane. Tanto che Repubblica mette anche la storia del sindaco, neosindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, sotto. Brugnaro dice: lo avevo promesso in campagna elettorale e ora lo faccio, via i libri gender dalle aule scolastiche di Venezia. E quindi negli asili nido e nelle scuole di infanzia di Venezia i bambini probabilmente non potranno più ascoltare la storia di Tango, cucciolo di pinguino allevato dai suoi due papà, Roy e Silo, allo zoo di Central Park. Oppure non potranno più scoprire nel viaggio del piccolo uovo, illustrato dal Tan, quanto siano diverse le famiglie, comprese quelle con due mamme o con due papà, e quanto sia uguale l'amore che si può ricevere. Lo ha deciso il sindaco di Venezia, Brugnaro, candidato civico, dice: lo avevo promesso in campagna elettorale e l'ho fatto, ho dato ordine agli uffici che vengano ritirati tutti i libri in cui c'è scritto genitore 1 e genitore 2 dalle scuole invece che mamma e papà, ma non dalle biblioteche dove c'è libertà di scelta. Questo è nell'articolo di Francesco Furlan, a pagina 21 di Repubblica, la decisione del sindaco di Venezia. Ma veniamo, ecco qui, all'articolo che ci fa più insare di questa giornata. Lucrano, lucrano i criminali perfino su questo. C'era un'inchiesta che l'aveva messo in evidenza, perfino sugli abiti per i poveri. Ma porcaccia miseria, dietro gli abiti per i poveri un racket da 200 milioni. Claudia Osmetti su Libero: altro che beneficenza, credevate che quella camicetta fuori moda che avete messo nel cassonetto sotto casa fosse destinata ai bisognosi? Sbagliato. Spesso gli abiti usati finiscono in mano alla criminalità organizzata. E tanti saluti al prossimo. Succede che questi vestiti, infatti, di seconda mano, siano rivenduti a negozi vintage o a qualche bancarella, magari illegale. Lo dimostra uno studio di Humana People to People e Occhio del Riciclone Onlus. Indumenti usati, come rispettare il mandato del cittadino? Questa era la relazione. In 31 pagine di rapporto nero su bianco ci sono anche le inchieste della Direzione Nazionale Antimafia, che avevano lanciato l'allarme già nel 2013 spiegando che buona parte delle donazioni di indumenti finiscono per alimentare un traffico illecito da cui camorristi e sodali tra vari traggono enormi profitti. Dico, ma porcaccia miseria. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alino, la rassegna stampa logora chi non ce l'ha. Ciao caro. Beh, non è male, ma si può perfezionare questa imitazione del grande Giulio Andreotti, eh? Però vabbè, dai, ci si può applicare. Grazie cari ascoltatori, tutto questo è disponibile anche grazie alla segreteria telefonica che noi abbiamo, lo 0246524492. Tutti coloro che mandano le loro siglette chiamano lì a questo numero 0246524492, la nostra sigla, la nostra segreteria telefonica. Potete mandare la vostra sigla se volete, chiamate. Allora, tutti i giornali praticamente aprono su questa decisione della Corte Costituzionale che in pratica stabilisce che il blocco degli aumenti degli statali, degli stipendi degli statali, è illegittimo. Questo è un salvataggio a metà. Ricordavate che di recente c'era stata questa preoccupazione in virtù di questa sentenza che stava per arrivare, perché se avessero deciso è illegittimo anche per il pregresso, bisognava restituire 35 miliardi agli statali, perché gli stipendi sono bloccati da anni. Invece la Corte Costituzionale ha deciso un po' così, ha deciso che il blocco è legittimo, ma per il passato ciò non vale e quindi non è retroattiva la misura, varrà semmai dal futuro, quindi al prossimo anno. Come spiegano Davide Colombo e Marco Rogari a pagina 5 del Sole 24 Ore, il blocco dei contratti ai dipendenti pubblici è illegittimo, ma solo dal momento della pubblicazione della sentenza con cui ieri la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta. Nessun effetto retroattivo della bocciatura, dunque, anche perché la norma cancellata in origine era legittima, ma illegittimo è stato protrarla per troppi anni. Quindi da qui c'è l'illegittimità. Questo cosa vuol dire? Che, ripeto, è stata evitata la mina di 35 miliardi di buco dei conti pubblici per il passato. È invece un problema a partire dall'anno prossimo. Ora gli aumenti ci saranno, anche se il Corriere della Sera nel commentare dice non ci saranno per tutti. Per il Tesoro la spesa è quantificata in 500 milioni di possibile aumento a partire dall'anno prossimo, la stima però fino al 2019 salirà a un aumento di 21 miliardi. C'è un'intervista a Repubblica a Marco Carlomagno, che è il leader del sindacato Federazione Lavoratori Pubblici, che ha fatto ricorso e che ha ottenuto dunque una vittoria, seppure parziale se uno la legge con la mancata retroattività. Il blocco dei contratti è illegittimo, i diritti sanciti dalla Costituzione sono salvi, il governo non potrà più fare come gli pare, racconta intervistato da Luisa Grion. sono a pagina 3 di Repubblica. Sono molto soddisfatto di questo risultato. Così Marco Carlomagno, che ha promosso i ricorsi. È chiaro che la Consulta ha tenuto conto dell'articolo 81 della Costituzione e della necessità di salvaguardare il bilancio pubblico. È anche chiaro che è stata fatta oggetto di una campagna terroristica per evitare che la sentenza, come quella sulle pensioni, potesse avere effetti retroattivi. Dice anche la cifra che era stata messa con questa campagna terroristica di 35 miliardi per il passato di possibile buco, era una cifra falsa, gonfiata apposta per mettere pressione sulla Consulta. Comunque la decisione c'è stata. Oh, a proposito di soldi e di conti, visto che mi ha parlato di Ignazio Marino che non arretra di un passo, il Corriere della Sera racconta che sui conti del Campidoglio, dunque del Comune di Roma, c'è l'allarme di Fitch, una delle agenzie di rating. Pagina 11 del Corriere, il campanello d'allarme arriva. I recenti sviluppi politici nel Comune di Roma, dice Fitch, scrive Fitch, potrebbero danneggiare la capacità di amministrazione cittadina di attuare il bilancio 2015 e anche la parte restante del piano di rientro 2014-2016. Un ripianamento del debito previsto dalle leggi italiane, l'obiettivo potrebbe essere mancato senza una piena applicazione del piano di rientro. Visto che le tasse comunali sono già al massimo, fa sapere Fitch, ecco che il rischio è proprio di un mancata capacità di attuare il bilancio 2015. Questo l'ultima grana del Comune di Roma. Poi per quel che riguarda la politica, vi potete inebriare delle 5 interviste, 5 che io ho contato a Matteo Salvini. Alcune non sono riuscito neanche a strapparle. Comunque c'è un'intervista sul giornale addirittura è l'apertura. Salvini ha incontrato Berlusconi e quindi c'è il riavvicinamento nel centrodestra tra Salvini e Berlusconi. Ecco il patto con Berlusconi su fisco, migranti, lavoro e Unione Europea. Questa è un'intervista rilasciata al giornale da Matteo Salvini, la trovate a pagina 5. Salvini pronto al listone anti Renzi, il leader si sceglie con le primarie, l'intervista di Sandro Neri a pagina 12 del giorno. Patti chiari con Forza Italia, siamo noi a guidare, lista unica si vedrà. Questo è il testo il titolo dell'intervista ad Andrea Montanari su Repubblica. E poi c'è il retroscena di Ugo Magri sulla Stampa, la cena di Silvio con Salvini. Salvini che dice insieme fuori dall'euro. Ecco, questo devo dire che al di là delle interviste è forse la retroscena più interessante. Ugo Magri sulla Stampa, pagina 9, pare che la saldatura politica tra Salvini e Berlusconi possa ritrovarsi sul no euro, uscire dall'euro e forse addirittura dall'Europa. Durante la cena tra Berlusconi e Salvini, l'opting out, cioè l'uscire, appunto, è stato ipotizzato sul serio come gesto estremo cui potrà spingersi l'intesa tra Lega e Forza Italia se vinceranno le elezioni insieme. Come ultima disperata rivolta, casomai l'Unione Europea restasse quella di oggi, una camicia di forza burocratica imposta dalla Germania senza alcuna chance di cambiamento. Insomma, la campagna no euro e no Europa per il momento è di là da venire. Nessuno domani si metterà a raccogliere firme per un referendum come quello britannico. Eppure la suggestione di Cameron, che agli inglesi chiederà un sì o un no sulla permanenza dell'Unione, ha messo d'accordo Silvio e Matteo, più o meno su questo tema. Staremo a vedere. Le grane invece nel centro-sinistra sono due, giudicate se forti. Stefano Fassina lascia il PD. Lo fa in un'intervista a Repubblica. Beh, lo aveva già comunicato, intervistato da Goffredo De Marchis a pagina 7. Il PD ormai è pieno di banchieri, la vera sinistra oggi è Papa Francesco. La questione tra me e Renzi c'entra zero, come la battuta Fassina chi. Non è una questione di battute, è questione di scelte fatte che hanno pesato. La riforma del lavoro ha tolto qualche residuo a tutela a milioni di lavoratori, poi la riforma della scuola. Insomma, Renzi non è un usurpatore della ditta, anzi è l'interprete fedele estremo del PD costruito al lingotto. Il PD ha nel suo statuto una cultura plebiscitaria che poi si riflette nelle sue azioni. Solo Bersani è stato una, purtroppo, una parentesi. E quindi Fassina esprime tutto questo suo tormento e se ne va. L'altra spina dell'esecutivo, come racconta Francesco Verderami, è il fatto che, scrive Verderami a pagina 11 del Corriere della Sera, Renzi fatica a comunicare i risultati del governo. Questo ha detto ai suoi: come sfogo fatichiamo a ridire quello che facciamo. E poi, e questa è la cosa più incredibile per me, si pensa già alle comunali del 2016. Renzi, scrive Verderami, è già proiettato, come i suoi avversari, verso il prossimo test elettorale, le comunali del 2016 a Milano, Torino, Napoli, Bologna e forse anche Roma, aggiunge Renzi, se cade ovviamente Marino. Quello sarà il banco di prova, le comunali. In Italia si vota sempre. Sarà mica perché pensano sempre alle urne che non si fa mai una minchia? La dico con un francesismo. Mauro Meazza, pongo a te questa domanda. Buongiorno, vedo che siamo passati direttamente al turpilofio per introdurmi. No, no, perché? Cosa c'entra? Mica era riferito a te. No, ma non era riferito a me. Scusa, no, perché di solito anzi era una domanda ontologica di criminali, criminalità organizzata, eccetera. Adesso senti, a parte che oggi è una giornatina delicata, è stata già una nottata delicata per la questione della Grecia, ne parliamo diffusamente sul Sole 24 Ore e ne parleremo tutto il giorno sia sul sito e sia ovviamente a Radio 24 con i vari aggiornamenti. Oggi davvero si può dire senza ironia che potrebbe essere la giornata decisiva. Ti volevo chiedere, non è che in tutto quel disordine che hai dei giornali, ritagli, strappi di giornali, ti trovi il decreto legge su diritto fallimentare, crediti bancari? No, vediamo. No, perché vabbè, allora aspetta. Senti. Non ce l'hai. Perché lo aspettano in Gazzetta Ufficiale, ma ancora lo stanno lavorando, come riferisce appunto Giovanni Negri oggi sul Sole 24 Ore, nella prima pagina di Norme e Tributi, dove raccontiamo i contenuti, ma il decreto è ancora in elaborazione. I lettori della nostra versione digitale possono vederne un'anteprima sul tablet, se usano il tablet per leggere il Sole 24 Ore. Tu usi il tablet o usi la carta? L'uno e l'altro, ho capito. Ecco, poi ti volevo dire che si comincia a discutere della local tax. Tu sai cos'è la local tax? No, ma lo scoprirai presto, è quella che sostituirà nei tuoi incubi l'IMU, la TASI e quant'altro, lo scopriremo probabilmente in autunno. E poi sul Sole 24 Ore di oggi parliamo anche della scuola, perché oggi è un giorno importante, non ho detto l'altro aggettivo, dico solo importante perché c'è previsto il voto di fiducia e quindi poi si passa alla Camera dalla settimana, non quella prossima, quella successiva ancora. E poi parliamo anche dei dati sull'occupazione. Ieri sono stati diffusi più 178.000 occupati, però segnalano i commentatori del Sole 24 Ore, attenzione perché è un po' diminuita la quota del tempo determinato, quindi indeterminato, quindi questo diciamo è un segnale un po' ambivalente. Stai trattando con qualcuno la tua uscita, perché riferiamo anche di trattative sul mercato radiofonico, caro Alessandro Milan. Che ti devo dire? Devo comunicarlo qui che me ne vado? No, non lo so. Si tratta in realtà non me ne vado, ma chi me di assetti proprietari, non di personaggi, ma leggi comunque, informati su quello che sta cambiando nel nostro ambiente, soprattutto nel tuo ambiente, mi viene da dire. E poi, ultimo ma non per questo meno importante, due questioni. Innanzitutto la nuova Giulia presentata ieri, e poi ci sono delle trattative non solo nel mercato radiofonico ma anche per la Formula 1. Perché un miliardario americano e il fondo del Qatar starebbero pensando di rilevarne la proprietà dal patron, da Ecclestone. Ma ti spiego tutto, le pagine. Sarebbe una rivoluzione incredibile per la Formula 1. Sarebbe un cambiamento abbastanza radicale. Ti spiegano tutte le pagine di finanza e mercati. Molto come bene. Mai ti parlo di automobili proprio adesso? Chissà perché. Perché ti voglio dire traffico! Alessandro Milan, il pane Nutella dell'informazione. Zebon. Contiene valori nutrizionali, energia, grassi, carboidrati, proteine, sale e olio di palma. Ah, pure l'olio di palma. Allora va bene, ma straordinario questo. Ma straordinario questo nostro ingresso, di questa nuova sigla Pane Nutella, Nutella. Allora, c'è anche questa questione politica non di poco conto per il centrodestra e per Silvio Berlusconi. I PM a Napoli hanno fatto la richiesta per il processo in cui è imputato Berlusconi per compravendita presunta di senatori, e i PM chiedono 5 anni di carcere per Berlusconi, che dice: ecco, nel momento in cui torno politicamente rilevante, i giudici mi vogliono ancora fermare. Comunque tutti i giornali raccontano di questa richiesta dei PM. Tra il 2006 e il 2008 si ricorda la vicenda che portò alla caduta poi del governo Prodi, l'accusa a Napoli nei confronti di Berlusconi è di avere pagato alcuni senatori per passare da una parte all'altra, quindi compravendita di senatori. Va bene, intanto la questione dei migranti rimane ben alta nelle pagine dei giornali. Oh, guardate qui che novità, l'Europa è spaccata al vertice decisivo, decisivo peraltro, non sottolineo questo aggettivo, pagina 8 del Corriere della Sera, l'Europa arriva spaccata al vertice decisivo sull'immigrazione. Tra l'altro due articoli sono interessanti sui migranti, Fiorenza Sarzalini a pagina 8, tante volte si parla, si chiacchiera, poi i numeri fanno capire. Ebbene, sappiate che dall'inizio dell'anno ci sono già stati 24 voli charter dall'Italia a destinazioni come in genere africane, quasi tutte africane, per riportare in patria e quindi fare i rimpatri dall'Italia. Paga Bruxelles, quindi i soldi, se già voi chiedete quanto ci costa, sì, certo ci costa, va nel bilancio europeo, quindi ci mettiamo anche noi dei soldi nel bilancio europeo, comunque non sono finanziati dalle casse dello Stato italiano, sono finanziati dalle casse di Bruxelles. In pratica due voli charter a settimana, questo è l'obiettivo, raddoppiare i rimpatri entro la fine dell'anno. Certo però sono più le persone che nel frattempo arrivano, in pochi giorni, fa sapere il Corriere, altri 1000 sono sbarcati. A proposito di questi, aveva detto il governatore della Liguria, ha detto Toti, mai più un migrante da noi. Titolo di pagina 9 del Secolo XIX, Francesca Forleo, Liguria, in arrivo altri 200 migranti. L'emergenza del confine con Ventimiglia sta lentamente rientrando, la provincia d'Imperia verrà comunque esclusa dalla redistribuzione, ma gli sbarchi non si fermano ed eccoli qui, 200 persone sono pronte già a partire. Il primo pullman, per la verità, è partito già ieri da Agrigento con un centinaio di persone a bordo. E mamma mia, 100 persone, che pullman è? Vabbè. Tutte provenienti dall'Africa subsahariana, arriverà a Genova a metà mattinata, quindi 200 migranti in arrivo in Liguria. Questo per quel che riguarda appunto il Secolo XIX, fa sapere. Il Papa ha parlato ancora, ha parlato di violenze soprattutto all'interno della coppia, ha parlato del matrimonio, ha detto una cosa molto importante, il Papa, per tutte coloro che subiscono violenza fisica all'interno della coppia, all'interno del matrimonio, il Papa Bergoglio, Papa Francesco, ha detto: il divorzio è inevitabile quando c'è violenza. Bisogna sottrarre il coniuge più debole e i figli alle ferite e all'avvilimento. E dunque è moralmente assolutamente accettabile, se la donna subisce violenza, arrivare al divorzio. Beh, insomma, parole che voi dite sono di una banalità, di una normalità, però dette da un papa fanno certamente sempre più colpo. In tutto questo che succede? Continuano le indagini sulla vicenda del Catania Calcio, arrestati presidente ed altri vertici perché avrebbero comprato alcune partite per rimanere in Serie B, almeno 5 partite, come ha detto prima gli inquirenti si sono insospettiti perché parlavano di treni da prendere, quando dicevano bisogna prendere il treno delle 15, il treno delle 12, il treno delle 22, in realtà secondo gli inquirenti identificavano con questi numeri i numeri delle magliette dei calciatori da comprare delle squadre avversarie. Gli inquirenti si sono insospettiti lievemente quando uno del Catania al telefono ha detto dobbiamo prendere il treno delle 33. Ecco, sul treno delle 33 gli inquirenti come nella celebre scena del film di Fantozzi, dovevamo metterla quando trova chili di pane nella cucina della moglie, venne colto da un leggerissimo dubbio. Non molto geniali nel prendere il treno delle 33. Va bene, passiamo al momento della carta costa. L'articolo più inutile scovato sui giornali, a mio insindacabile giudizio, come sempre, oggi stravince, trionfa Matteo Persivale. Siamo sul Corriere della Sera, pagina 27. È un articolo di mezza pagina, corredato di tanto di foto. Libri, arte, cianfrusaglie, Johnny Depp vende casa. La casa di Johnny Depp è in vendita, con le foto, in mezza pagina, sul Corriere della Sera. Ma chi se ne frega? Il segnale orario vi è offerto da... Proteggi la tua casa. Index isola, impermeabilizza e risana in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan. Che devozzino via fuoco. Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei. Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Sono le 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, cari ascoltatori. Allora, quando si legge un titolo come quello che due giorni fa appariva sul giornale, si fa un salto sulla sedia, eh? E noi l'abbiamo fatto mentre leggevo tutto ciò in rassegna stampa. Il titolo apparso due giorni fa sul giornale era questo: condannato a 44 anni ma resta libero. Uno dice, ma come diamine sia possibile una cosa del genere? È la vicenda che riguarda un signore che vive tranquillamente a Viareggio, in una casa popolare, fa sapere sempre il giornale, si chiama Massimo Remorini, è condannato per omicidio volontario di una donna, 30 anni, poi altre 8 per aver truffato sempre questa donna. Nel frattempo, durante il processo, è arrivata una condanna a 6 anni per una rapina. Insomma, io adesso sono un po' impreciso, ma avremo qui ospite il suo avvocato, che ci può dire esattamente i termini della questione. Insomma, mettendo tutto insieme, si fa la cifra stratosferica di 44 anni. Eppure lui, anche ieri, avvicinato da Stefano Zurlo del giornale che ha portato alla luce questa vicenda, dice: sì, vado in giro per il paese, tutti stanno dalla mia parte, non c'è nessun problema. Stefano Zurlo, buongiorno. Buongiorno, ciao, buongiorno, ben trovato. Saluto anche l'avvocato di Massimo Remorini, l'avvocato Massimo Landi. Buongiorno, avvocato. Grazie. Buongiorno di Milan con noi. E buongiorno Azzurro. Allora, Zurlo, la questione è semplice. Dal punto di vista della legge, e tu lo hai chiarito nei tuoi articoli del giornale dei due giorni, non c'è nulla di anomalo, nel senso che sappiamo sono condanne di primo grado intanto, e poi sappiamo che in carcere si va solo se esistono uno dei tre rischi, cioè reiterazione del reato, pericolo di fuga o inquinamento delle prove. Evidentemente per i giudici non c'è questo rischio. E allora il signor Massimo Remorini che ti dice, Stefano? Ma lui, appunto, sono stato lì a casa sua, alla periferia di Viareggio. Lui, dopo un breve, abbiamo parlamentato un secondo perché lui era si affacciato al balcone all'ultimo piano, poi è sceso e mi ha detto: guarda, io vado avanti per la mia strada, non ho niente di cui avere imbarazzo, niente di cui mi devo preoccupare, niente di cui, per cui devo scappare o nascondermi. Io sto a Viareggio, vado al bar, vado al caffè, vado in posta. Beh, se è libero, tutti può farlo. Certo, tutti mi vogliono bene, andremo fino in fondo e vedremo chi la vince. Anche con termini un po' di sfida, devo dire. Però anche molto, come dire, anche con le sue motivazioni, con termini di sfida, di provocazione, ma anche con un linguaggio molto sorvegliato. Però, non pensiamo a un personaggio non è chiaro, così, ma però questa storia perché dovrebbe farci indignare, Zurlo? Perché di fatto... ne parlavo anche l'altro giorno proprio con l'avvocato Landi, che saluto, perché il punto è questo: in Italia si accumulano spesso, ormai ne ho visti tanti, processi con condanne importanti. Poi il problema qual è? Che dopo la sentenza di primo grado, noi sappiamo benissimo, come accennavi prima, che la presunzione di innocenza è scolpita nella Costituzione, e allora si rimane in questo limbo tra il primo, il secondo, il terzo grado e la Cassazione delle sentenze definitive, magari 2 anni, 3 anni, 5 anni, in cui una persona che teoricamente, ma non solo teoricamente, è stata condannata per reati spaventosi, qui parliamo di distruzione, occultamento di cadavere, omicidio, maltrattamenti, circonvenzione di incapace, truffa, non solo, ma la cosa che poi mi ha colpito e per cui poi sono partito su questa storia è che mentre veniva processato per l'omicidio di questa signora e la morte poi della madre, perché sono due donne in questione, sparite nel nulla, c'è stata una avrebbe compiuto una rapina e l'hanno riarrestato durante il processo e poi naturalmente messo subito fuori. E la rapina è avvenuta durante il processo degli omicidi. Quindi voglio dire, siamo in una situazione in cui non è reiterazione del reato, ma no, avrebbe commesso un altro reato. Perché siamo in primo grado. Il tutto devo dire con un quadro, perché lui stesso mi ha raccontato che tra il 99 e il 2002 ha già visitato le patrie galere per reati finanziari. Sì. Allora uno dice: va bene la presunzione di innocenza, ma insomma, se una persona ha un curriculum impressionante, i reati continuano, però naturalmente i giudici ti possono rispondere che ogni reato va valutato a sé, il pericolo. Ma qui Zurlo c'è il suo avvocato, al quale intanto io faccio i complimenti, perché avvocato Landi, intanto le facciamo i complimenti, perché da avvocato evidentemente è riuscito, nonostante le condanne di primo grado, ma lei lo segue per tutte le vicende, anche per la rapina oppure solo sì, per... Sì, io lo seguo per entrambe le vicende. Allora ci dia una spiegazione di come tutto questo possa essere possibile, al di là del fatto che è tutto a norma, come ci ha spiegato Zurlo. Ma guardi, non c'è veramente nulla di strano, Zurlo ha già detto tutto, mi pare che veramente non ci sia da aggiungere niente altro, è proprio un problema di corretta applicazione delle regole che vigono in questa situazione. Ragionare diversamente significherebbe ancorare, almeno per il caso di Remorini, l'esigenza cautelare al fatto di avere riportato precedenti condanne o di aver verosimilmente commesso un altro reato nel momento in cui era sotto processo. Non sono quelle circostanze concrete, quegli elementi concreti che la legge richiede per l'applicazione della misura cautelare. Elementi concreti, però sappiamo, e l'abbiamo raccontato tante volte, che nelle carceri italiane ci sono tantissime persone, addirittura secondo alcuni il 60% di persone che sono in attesa di giudizio, cioè persone che non hanno neanche ottenuto una sentenza di primo grado in carcere in questo momento in Italia. Magari la sentenza di primo grado quando arriva è un'assoluzione, quindi si sono fatti del carcere inutilmente di fatto. Allora vede, è proprio questo il problema. Ora io non voglio entrare nel merito delle scelte del legislatore, perché sarei sicuramente la persona meno adatta per farlo, però forse il problema è quello della lentezza o della velocità dei processi, perché la misura cautelare diversamente diventerebbe proprio uno strumento per assicurare una detenzione che poi magari viene negata dopo 2 anni di processo, 3, 4, quelli che sono. Ecco, quindi questo sarebbe veramente intollerabile. Però ha sentito Zurlo, dice l'accusa e la condanna per la rapina è avvenuta, certo è una condanna di primo grado, però è avvenuta durante il processo, quindi avrebbe commesso un altro reato mentre era imputato per un reato gravissimo, quello di omicidio. Certo, sì, lo capisco questo, mi rendo conto della sua osservazione, ma la mia risposta è: avrebbe commesso il condizionale ad obbligo, è un processo che è ancora in corso. Remorini peraltro ha sempre negato responsabilità in entrambi i fatti, questo è bene, e continua a farlo, è bene segnalarlo, e ha tenuto nel momento in cui è stato sottoposto ad una misura cautelare un comportamento estremamente corretto. Ricordo che quando fu tratto in arresto per i fatti più gravi per cui è intervenuta condanna a Lucca, fu scarcerato per decorrenza dei termini, non si sottrasse mai alla esecuzione dei provvedimenti e ha sempre ha sempre collaborato, che è stato rispettoso delle prescrizioni, cioè un comportamento che non ha mai segnalato la volontà di contravvenire o di allontanarsi o di reiterare, e sulla base di queste non è andato in carcere, è paradossale, è abbastanza incredibile raccontare una cosa Zurlo che sembra tutta fatta a norma. Tra l'altro voglio tranquillizzare Daniela da Viareggio che ci segue e che dice: ma insomma, che diamine, abbiamo tante belle cose a Viareggio, parlate di Giulia Morini, ma che c'entra? Vive a Viareggio, potrebbe vivere in qualsiasi città italiana, non è che vogliamo identificare Viareggio con questa storia. Però Zurlo, qui c'è da capire perché questa indignazione dovrebbe forse avere, qualcuno dice, un po' portare un po' di sfiducia nel mondo della giustizia, ma sappiamo che ogni procedimento fa storia a sé, non è che si possono mettere insieme. No, certo, fa storia a sé, però l'indignazione, la sfiducia, lo sconcerto credo che siano persino banali, persino scontati, perché sono due gli aspetti qua che colpiscono. Uno è quello che dicevamo prima dell'esasperante lentezza dei procedimenti, per cui tu teoricamente sei accusato e condannato pure per omicidio eccetera, ma si aspetta l'appello, poi magari si aspetta la Cassazione. Qua l'appello, anzi gli appelli e dell'omicidio e della rapina devono ancora essere fissati, quindi per bene che vada, qua ne riparliamo tra appello e Cassazione fra un anno o due. Ora, si può tenere una persona che va in giro tranquillamente, anche per lui, proviamo a rovesciare se fosse innocente. Si può tenere una situazione del genere per anni, come se, capite che la situazione è surreale, ma è drammatica. Il secondo aspetto però non è solo questo, è anche appunto la legge e l'interpretazione delle norme che regolano la custodia cautelare. Io sono contrarissimo, l'ho scritto 100.000 volte, a che la custodia cautelare, l'arresto, insomma, diventi una sorta di anticipazione della pena. Sì. Però è anche vero che con le regole sempre più sfumate che sono state fatte, con l'interpretazione che spesso ne danno i giudici, la custodia cautelare diventa sempre più difficile. La stessa PM di questa vicenda, la dottoressa Polino, come sappiamo, aveva chiesto nel corso, alla fine della sua requisitoria, quando ha chiesto l'ergastolo, e poi la pena è stata 30 anni più 8 per i reati finanziari, parlo del processo principale, l'anno scorso, nel chiedere l'ergastolo aveva chiesto anche la misura cautelare, l'arresto di Re Morini. La Corte d'Assise ha detto di no, dicendo che non c'era appunto un pericolo concreto, attuale, e l'avvocato di parte civile, che non è qui oggi, mi ha parlato di buonismo dei giudici e le solite cose che sentiamo dire spesso. Quindi sono due gli aspetti, secondo me, da tenere presenti. È chiaro che tutto il quadro finale, da cui sono partito io, è di un paradosso quasi insostenibile. Sì, non so, un paradosso che stona. C'è qualcuno poi che mi arriva via SMS a dire ci vuole la responsabilità civile dei giudici, ma a parte che è un'altra questione questa, ma poi qui la responsabilità civile dei giudici cosa c'entra? Mica c'è stato un errore giudiziario, insomma. C'è stato l'errore, ma c'è anche la, se vogliamo, la beffa, perché Re Morini mi ha raccontato, l'ho scritto sul giornale di ieri, che quando lui era detenuto ai domiciliari in una delle tante interminabili fasi di questa vicenda, aveva pure il braccialetto elettronico, e dice quando poi la corrente saltava e c'era un blackout, il braccialetto si metteva a suonare, allora ero io che chiamavo i carabinieri e gli dicevo guardate che non sto scappando. Questa è un po' la cosa, no, che lui mi ha raccontato. Dopodiché adesso non ha né arresti, né domicilio, né braccialetto, né obbligo di firma, né nulla di nulla. E l'idea è che questa situazione possa durare per anni, magari ci troviamo a Radio 24 fra un anno e siamo esattamente nella stessa situazione. Non lo so, avvocato, dal punto di vista, cioè lei sta, non dico sfruttando, ma voglio dire, dal punto di vista processuale come avviene, se ci proiettiamo nel futuro? Io sto attendendo, no? Noi abbiamo tempestivamente depositato gli atti di impugnazione, non ancora quello sul fatto della rapina, perché la sentenza non è ancora depositata, e quindi stiamo attendendo la fissazione dell'udienza, ecco, non... sfruttando dal punto di vista legittimo, cioè sfruttando tutte le pieghe per evitare il carcere a una persona, insomma, da avvocato. No, ma il carcere per rispondere a Zurlo, ma la richiesta della dottoressa Polino sarebbe stata, cioè l'accoglimento di quella richiesta sarebbe stato veramente un provvedimento, quello sì, paradossale e assurdo, perché Re Morini, dopo la scarcerazione non si sottrasse mai al confronto con l'autorità, è sempre stato presente a tutte le udienze, non ha mai abbandonato la scena del processo. Non vedo perché all'esito di una sentenza di primo grado, che pure è pesante, lui avrebbe dovuto il giudice avrebbe dovuto ipotizzare solo per questo, e anzi è proprio questo che il legislatore esclude, un rischio di fuga, ed è su quelle basi che la richiesta è stata. Ma lei, almeno avvocato, per concludere, capisce un po' l'eventuale indignazione di chi ascolta, e magari indignazione sbagliata? Una indignazione frutto dell'ignoranza intesa, voglio dire, non in delle senso norme, offensivo, sì, sì, ma chiaro, ecco, in senso tecnico, per non conoscenza delle norme, e io sarei molto più indignato a pensare ad una persona innocente in carcere, in attesa di giudizio. questo sì, come ce ne sono tanti, però come, ecco, come ce ne sono tanti, come l'abbiamo detto, ce ne sono moltissime, insomma, e su quelli l'indignazione è un po' minore. E va bene, vedremo se tra un anno o due anni o tra sei mesi ci ritroveremo a raccontare le stesse cose. Intanto io per il momento vi ringrazio, Stefano Zurlo, inviato del Giornale, che ha raccontato questa vicenda da un paio di giorni, l'abbiamo letta nella segna stampa, mi aveva molto colpito e quindi volevamo approfondirla, così come l'avvocato Massimo Landi, che è stato con noi. Dopo la pubblicità noi avremo il sottosegretario all'economia Zanetti per parlare di questa vicenda del blocco dell'aumento degli stipendi degli statali. Tutto ciò è stato giudicato illegittimo dalla Corte Costituzionale. Sapete che gli statali da vari anni hanno il blocco degli stipendi dell'aumento, e quindi, però la Corte Costituzionale ha detto tutto ciò è illegittimo, ma non vale per il passato, quindi non pensate, cari dipendenti pubblici, adesso di avere indietro i soldi per i mancati aumenti degli anni scorsi, li avrete dall'anno prossimo. Devo dire, dovevamo avere anche l'assessore al patrimonio di Roma per la vicenda delle case, Alessandra Cattoi, ma è stata chiamata per una riunione e quindi farà una riunione, un improvviso impedimento, però ci ha promesso, ci ha chiamato gentilmente, ha detto nei prossimi giorni sarà con noi, quindi torneremo su questo argomento. Ripartiamo invece col sottosegretario all'economia Zanetti tra poco, se volete chiamare 800 24 00 24. Sono le 8:38 minuti. Allora, cari dipendenti pubblici, circa 3.200.000 di dipendenti pubblici in Italia. Cari dipendenti pubblici, la Corte Costituzionale ha sancito, accogliendo un ricorso, che il blocco dei contratti dei dipendenti pubblici in atto da qualche anno è illegittimo. Potete stappare lo champagne? Non lo so, a metà, perché in realtà ha stabilito che è legittimo e quindi ci sarà un aumento l'anno prossimo, evidentemente. Però per il pregresso rimane tutto così, cioè la misura non è retroattiva, dunque non pensate che vi restituiscano soldi che alla luce di questa sentenza voi pensavate magari di poter avere. Addirittura l'Avvocatura dello Stato aveva stimato in 35 miliardi il rischio di buco nei conti pubblici se la Corte Costituzionale avesse detto è illegittimo e vanno restituiti tutti i soldi del passato. Comunque ne parliamo con il sottosegretario all'economia Enrico Zanetti, che ringrazio. Buongiorno Zanetti, di Scelta Civica. Buongiorno. Ben trovato. Allora, intanto, come accoglie questa? È una mezza vittoria, una mezza sconfitta? Com'è dal punto di vista governativo? Non la vivrei in questi termini nel rapporto governo-magistratura. È una pronuncia che mi sembra comunque equilibrata, anche nella misura in cui, da quello che mi sembra di capire, fa leva essenzialmente non tanto sul concetto di remunerazione adeguata, principio veramente che con l'articolo 36 della Costituzione, principio veramente complesso da mettere in campo in un caso del genere, perché davvero a quel punto si rischia l'economia pianificata per tramite giurisprudenziale, ma fa leva sull'articolo 39, quindi sostanzialmente la compressione per un periodo di tempo, peraltro appunto troppo lungo per effetto delle proroghe, sì, delle libertà sindacali, quindi del diritto di contrattare in modo collettivo il proprio contratto. In effetti i governi che si sono succeduti, compreso il nostro chiaramente, si sono un po' seduti su quella norma che aveva adottato per la prima volta il governo Berlusconi, prorogandola per vari anni. Devo dire che a me non è mai piaciuta particolarmente, per il semplice fatto che attenzione, sia chiaro, il mettere un freno anche tra le varie voci di spesa, anche alla spesa per personale, sì, pur spiacendo, certo, era e rimane, sottolineo rimane, una necessità fondamentale. Però il blocco dei contratti è la quintessenza delle classiche norme di taglio lineare, non a caso, infatti, sì, è chiaro, riconducibile come prima pensata al governo. Cioè, per risparmiare blocchiamo, esatto, blocchiamo a tutti quei 15 euro magari di aumento. Chi lavora, chi non lavora, mentre io credo che questa sentenza metterà finalmente di fronte l'intera politica, e non solo noi di Scelta Civica, che nel nostro piccolo continuavamo a ripeterlo da tempo, di fronte alla inevitabilità di scelte di carattere di merito, perché comunque è evidente che una spending review intera, che non è mai stata fatta, dovrà essere fatta anche sulle spese per il personale. Però, questo vuol dire sì. premiare chi merita, dare gli scatti a chi lavora, ma magari produrre norme più serie, ma magari chi, magari ci fosse questo in Italia. Però no, sottosegretario, no, ma magari si arrivasse a questo tipo di premiare chi merita e non premiare chi non lo merita. Il ricorrente, il sindacato dei ricorrenti, ha detto c'è stato è Marco Carlomagno, il sindacato Federazione Lavoratori Pubblici, ha detto c'è stato una sorta di terrorismo mediatico, cioè si è detto guardate che rischiamo se vengono corrisposte anche quelle del passato 35 miliardi di buco dei conti pubblici, e la Corte Costituzionale, dice Carlomagno, ha, come dire, si è trovata di fronte a questo rischio dopo la vicenda nota delle pensioni di aprire un altro buco. Voi temevate davvero, c'era il timore a Palazzo Chigi, c'era il timore nel governo che arrivasse quest'altra mazzata sui conti pubblici? A dire il vero, io reputerei più sorprendente l'approccio che c'è stato in occasione della sentenza delle pensioni che non nel caso di questa sentenza, che peraltro ha dei precedenti anche in altre circostanze, ad esempio la sentenza che ci fu sulla incostituzionalità della Robin Tax, cioè quella tassa aggiuntiva per i produttori di energia. Cioè, normalmente l'approccio è sempre stato quello, cioè di una non retroattività idonea a mettere. Quindi eravate tranquilli, eravate abbastanza sereni su questo. Per carità, essendoci stato il precedente delle pensioni, infatti, la tranquillità assoluta, che peraltro non è di questo mondo e men che meno non è di questo paese negli ultimi anni, non c'era ovviamente. Però onestamente, da un punto di vista di regola eccezione, eravamo ancora abbastanza convinti che la regola fosse le pronunce, come c'erano stato nel caso della Robin Tax, e che casomai quella delle pensioni costituisse un po' un caso particolare, ed effettivamente così è andata. È così è andata, e quindi però adesso è evitata questa mina da 35 miliardi, c'è però il fatto che il blocco è illegittimo. Nel prossimo anno quindi non lo potrete fare. Sì, ma come dicevo prima, io la vivo cioè noi almeno di Scelta Civica la viviamo anche come un'occasione, perché su questa norma ribadisco tutti i governi, compreso anche il nostro, perché per molti che ragionano in modo magari un pochino meno puntuale sulle scelte da fare nel merito della spesa, era una comodità, no, un classico taglio lineare, blocchiamo a tutti scontenti, ma anche è la cosa più facile da fare, poi è una norma che è già in campo, la si proroga. Sì. Invece una norma di questo tipo era comunque negativa, perché nell'ambito del perimetro della pubblica amministrazione ci sono comunque tantissime persone che si impegnano quotidianamente e non hanno veramente motivo di essere penalizzate in modo ingiustificato. È chiaro che questo vuol dire mettere in campo, però al tempo stesso, lo dicevo prima, degli strumenti che non prevederanno, come penso invece credano forse i sindacati che oggi festeggiano, un aumento indiscriminato tutto a tutti. Una moltiplicazione di cose. Ma che cosa, cosa prevedete? Cioè, ma io credo che lo strumento che proprio adesso, tra l'altro, è in fase parlamentare della riforma della pubblica amministrazione, sia lo strumento ideale per ragionare in modo ancora più puntuale su sistemi veri di incentivazione, premio, e al tempo stesso anche sistemi che evitino che questi premi vengano erogati a pioggia, come anche recentemente è venuto fuori relativamente al caso di Roma, che non è sicuramente un caso isolato, dove appunto negli anni dal 2008 al 2012 la parte della remunerazione variabile, quella che in teoria doveva essere legata ai incentivi, è cresciuta enormemente perché veniva erogata a pioggia. Peraltro in questo, proprio con quella connivenza, c'è poco da fare, chiaramente, anche di quelle controparti sindacali insieme alla politica, che oggi festeggiano, ma che sono parte attiva di una pessima gestione delle risorse umane della pubblica amministrazione in questi ultimi decenni. Zanetti, fanno notare in conclusione che c'è stato molto silenzio su questo da parte di Palazzo Chigi, cioè, lei è l'unico rappresentante del governo che in qualche modo pubblicamente ha parlato. Ho visto che è intervenuto anche il sottosegretario Rughetti, giustamente, della funzione pubblica. Sì, certo, però voglio dire, notano neanche un tweet da Palazzo Chigi, neanche un tweet da Renzi, oppure c'era anche il ministro alla funzione pubblica, Marianna Madia, che nei giorni scorsi ancora diceva e si risentiva abbastanza sicura sul fatto che la Consulta non avrebbe bocciato questo blocco dei contratti. Guardi, cosa pensa il ministro Madia piuttosto che i tweet li andate a chiedere, a chiedere a loro. Anche in occasione della sentenza delle pensioni ricordo che ci fu una certa ritrosia per un po' a commentare. Io credo che quando le posizioni sono chiare, sempre nel rispetto naturalmente dei ruoli istituzionali, sia giusto commentarle. Noi, la nostra posizione come Scelta Civica, sia relativamente alle pensioni, sia relativamente a questa vicenda, sì, già nei mesi passati l'abbiamo sempre esposta con chiarezza e oggi la ribadiamo con la stessa. Mi dica, visto che lei è appunto segretario di Scelta Civica, voi siete per la fiducia sul tema della scuola, giusto per andare su un altro provvedimento importante? Guardi, noi siamo rimasti in una prima fase onestamente un po' perplessi a causa di un incontro che, pur essendosi svolto in sede istituzionale del Palazzo Chigi, aveva visto la partecipazione del solo dei soli esponenti del Partito Democratico, e visto che nella prima lettura alla Camera i nostri 25 voti erano stati comunque decisivi per superare i 316, la cosa onestamente non ci aveva non mi hanno coinvolto. Avete perso anche il ministro Stefano Giannini, che era di Scelta Civica, è passata al PD, quindi quello è tutta una partita che adesso vedremo con la sistemazione del governo. È ovvio che qualcosa dovrà essere fatto, però è chiaro che questo non ci aveva fatto piacere. Però questa è una questione di metodo. Venendo al merito, adesso ovviamente abbiamo avuto modo di condividere alcuni passaggi, avendo il governo tenuto duro su alcuni paletti per noi fondamentali, cioè nessuno stralcio, perché non si può trasformare la riforma in un mega piano di assunzione dei precari e poi si vedrà. Avendo tenuto duro sulla questione che la norma non può diventare addirittura sperimentale per un triennio come alcuni volevano, perché sennò è una presa in giro, c'è solo un differimento al 2016 che è assolutamente funzionale al fatto che poi le assunzioni si concretizzano a novembre, quindi è tutto. Dati questi elementi, visti nel merito e discussi, noi siamo comunque a favore di questa riforma, che consideriamo presupposto ineludibile per andare a investire, non spendere, investire 3 miliardi di spesa nel piano straordinario di assunzioni, mentre le assunzioni senza riforma sarebbero stata pura spesa, in spregio agli altri settori della pubblica amministrazione che e non hanno insomma, le risorse. La voterete. A questo punto noi sinceramente non abbiamo particolari, essendoci i nostri punti non abbiamo motivo di votare. Mi spiace che si debba procedere per fiducia, ma ancora una volta si vede che nonostante la leggenda sia che sono i piccoli partiti che pongono i paletti, mi sembra sempre più evidente che qua i problemi nascono a causa delle correnti interne dei grandi partiti. Del PD. Allora la ringrazio, sottosegretario Enrico Zanetti, grazie per essere stato con noi, sottosegretario ovviamente all'economia e segretario di Scelta Civica. È il momento di andare al traffico. Allora, sono le 8.50, vorrei sentire Guglielmo da Napoli. Guglielmo, buongiorno. Ah, buongiorno Milan. La mia osservazione, anche se non so se riesco a riassumerla in poche parole, è la seguente. Con la sentenza della Corte si è sbloccato praticamente uno degli ultimi paletti della legge che bloccava tutto il pubblico impiego. Gliela riassumo in particolare, c'era un blocco per le categorie contrattualizzate e un blocco per le non contrattualizzate, quali magistrati, docenti universitari e militari diplomatici. Ora, le ultime categorie godevano di un adeguamento Istat sulla base della media degli aumenti del pubblico impiego più una carriera che era basata su scatti di merito o di anzianità in relazione alle specifiche attribuzioni. Ora, i magistrati ebbero lo sblocco immediato, perché incostituzionale, del loro blocco degli stipendi. Tutti gli altri hanno avuto lo sblocco nel corso di questi anni, diplomatici, militari e altri. Sì. Gli unici che sono rimasti al palo, per i quali oltretutto non è riconosciuto più questo periodo ai fini della propria anzianità, sono i docenti universitari. Cioè i docenti universitari. Lei lo è? Cosa? Lei lo è? Sì, ecco. Chiaramente. La cosa non è tanto, è inversamente proporzionale all'anzianità, perché i più giovani hanno degli scatti di carriera legati al merito più consistenti e per un periodo più lungo, quindi perdere 5 anni si traduce nella perdita di questi 5 anni per tutta la vita lavorativa. I più anziani, come me, perdono pochissimo, quindi è anticostituzionale anche dovete fare un ricorso, se non tanto mai si fa ricorso sempre alla Corte Costituzionale e tante volte si vede vengono date ragioni, e se ci sono le ragioni come in questo caso. La ringrazio, Guglielmo da Napoli. Andrea a Catania da Giuseppe. Buongiorno Giuseppe, tifoso del Catania. Buongiorno, come? È tifoso del Catania, calcio? Purtroppo lo ero tifoso del Catania. No, vabbè. No, perché mi a Catania mi incuriosisce, so che ci sono dei drammi sportivi, si stanno vivendo. Ma guardi, per Catania è un dramma. Immagino, sì, è vedere arrestato il presidente. Qui da noi al sud ci tolgono tutto, tolgono anche il calcio, anche adesso calcio. Una città importante come Catania. Vabbè, dai, non si abbatta, dica la sua. No, sorte. Assolutamente, per il calcio Catania è meglio partire dai dilettanti onestamente che andare avanti così. Vabbè, questo guardi, è molto più dignitoso. Niente, io sono un dipendente pubblico, sì. Veramente avevo delle aspettative. Sì. Perché in questi anni, a conti fatti, se dividiamo i 35 miliardi per il numero dei dipendenti, ogni dipendente ci ha rimesso fino ad oggi circa 11.000 euro. Cioè lei aveva aspettative di avere i soldi indietro anche per il pregresso? Di avere i soldi indietro per il pregresso e cambiare le regole in corso e prendere in giro. Perché se ci dicono blocchiamo gli stipendi, un blocco prima o poi dovrà essere sbloccato. Dall'anno prossimo. Non eliminato. Dall'anno prossimo, ma non evidentemente. È retrattivo, e quindi non è retrattivo. Non è retrattivo. Sì, Giuseppe. Cambiare le regole mentre si gioca. Giuseppe, sì, questo. Cambiare le regole. Li hanno bloccati e una sentenza della Corte dice che il fatto di averli bloccati non si può più fare, ma non vi danno indietro i soldi. Se la prenda con i giudici della Corte Costituzionale, se sperava di riaverli indietro. Ma chiudiamo con la nostra segreteria telefonica 02 4652 4492. Amarino, te ne devi dannare, ci hai rovinato. Io vorrei sapere come Schettino ha potuto fare la dedica a quelli che sono morti. Ogni cosa si dice che ha il suo limite. Per esempio il piano B cosa vuol dire? Biscotti, birra o banane? Pure bordello? Vedi Milan, Renzi fa benissimo a bombardare giornalmente Ignazio Marino. Dal suo punto di vista deve pagare due colpe molto molto gravi. La prima è onesto, la seconda è stato eletto. Mi stavo chiedendo se i referendumi al caso Sofri, i nostri politici hanno ancora un minimo di capacità intellettiva, se dispongono ancora di un minimo di cervello, o l'abbiano perso completamente. È molto grave che Renzi copra De Luca, oppure che cambi la legge Severino, va bene? Io non lo voterò più. Le verità sommerse di Capitano Schettino, ma mannaggia con la ciocca la miseria, ma vedono poco quando si marri tutto. Questo credo che non ci sia bisogno di tradurla, l'editoriale del nostro amico. Allora ci fermiamo qui, Lorenzo Nespoli in redazione insieme a Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi e il nostro alpino Peter Bescapè in regia. A domani 6:30.